Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere ed uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185 Roma, ma credo anche se semplicemente Radio Onda Rossa. Un altro dei modi lo trovate sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità in PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni sulla scaletta di quest'oggi le trovate sul sito della radio alla voce trasmissioni visionari oppure sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Nella scaletta trovate gli ospiti, le uscite in sala di oggi giovedì 18 dicembre, i suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi il link per ascoltare la puntata precedente ma anche tutto l'archivio del 2014 e del 2013. Ci potete ascoltare in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza ma anche in streaming sempre sul sito della radio. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. Cominciamo allora parlando di un documentario, la malattia del desiderio, giusto? Sì. Ciao, come stai? Bene, come va? Buongiorno a tutti. Ne parliamo con la regista Claudia Brignone, che è in collegamento. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Io comincerei, Claudia, da questo titolo. Come mai questa scelta? La malattia del desiderio, perché insomma è una delle frasi che una delle dottoresse protagoniste del film cita, parlando appunto ad uno dei ragazzi dipendente da sostanze alcoliche, a cui appunto dice la dipendenza è una malattia del desiderio, è un desiderio malato. E quindi dopo un po' di tempo, insomma, anche con difficoltà a trovare un titolo per questo film, abbiamo scelto questo, Sì, è proprio perché la dipendenza è una malattia del desiderio, nel senso che per me è un desiderio, insomma, che a volte può essere, tra virgolette, cattivo, va? Allora, per chi ci ascolta, qual è il tema? Raccontiamo un po' cos'è questo documentario. Sì, il film è un progetto corale che racconta della storia di un CERT, appunto un servizio per le tossicodipendenze, che si trova a Napoli nel quartiere Fuorirotta. Mi sono avvicinata insomma al servizio molti anni fa, quasi quattro anni fa, e sono rimasta particolarmente colpita. Volevo cominciare un lavoro mio da un po' di tempo e così ho deciso di cominciare le mie ricerche al CERT. Ho frequentato il servizio per molto tempo, proprio perché avevo bisogno sia io di capire qual era l'approccio giusto e qual era il mio guardo verso, insomma, per queste persone e per questo luogo. Mm-hmm. E poi è un luogo per me molto emblematico, nel senso che il CERT di Fuorirotta si trova a molto molto vicino allo stadio San Paolo, appunto conosciuto da tutti per le partite eccetera eccetera. Per quanto si sa che Napoli sarà, diciamo, un luogo di calcio e sia così importante per il calcio, e quindi mi sembrava molto molto strano che invece il CERT non lo conosceva nessuno ed era invece proprio sotto la curva A, all'interno di un'ex sala stampa fatta costruire nel 90 per i mondiali. E quindi appunto sono stata lì quasi 3 anni e finalmente ho capito qual era il modo giusto per raccontarlo, o meglio il mio modo per raccontarlo, e ho scelto di raccontare le relazioni che si creano all'interno di questo luogo tra i medici e i pazienti. E soprattutto ho capito che per me era importante raccontare la dipendenza da un altro punto di vista, cioè a me non interessava andare a Scampia o nei soliti luoghi, diciamo, nelle piazze di spaccio, eccetera, o piuttosto seguire le storie di ogni persona, ma mi interessava stare lì in quel luogo e provare a raccontare la dipendenza dal punto di vista della cura, perché questo mi sembrava che desse più umanità e più rendesse giustizia, diciamo, alle persone che io avevo visto e che per me erano diventate forse troppo dire amici, però persone che avevano delle cose da dire. Claudia, di quante persone si occupa questo CERT? No, diciamo che il servizio è, diciamo, ce ne sono più o meno 10 in ogni municipalità in Campania, a Napoli, sì, in base a ogni quartiere ovviamente, e più o meno ci sono 100-200 utenti, diciamo, al giorno, come dire, che frequentano il servizio. Però ovviamente tutto ciò avviene attraverso la somministrazione del metadone o comunque attraverso la somministrazione di altre sostanze, di altre, diciamo, medicine, e poi ci sono dei colloqui psicologici e psichiatrici. Questo avviene nel CERT. Il documentario è il, diciamo, io mi sono, ho seguito alcune persone che sono tornate al CERT più volte e che sono poi diventate la mia narrazione fondamentalmente del film. Ecco, prima parlavi di metadone, nel tempo cambiano le dipendenze, cambiano le sostanze, e questo periodo di cui ti sei occupata, quali sono le dipendenze e le sostanze a Napoli? Guarda, io sinceramente è giusto quello che si dice, appunto, sì, le dipendenze cambiano, le sostanze cambiano, però per quanto mi riguarda, io ho girato questo film più o meno 2 anni fa e la dipendenza da eroina c'è ancora, cioè nel senso molti utenti erano eroinomani, quindi, ed anche il metadone è ovviamente la sostanza che sostiene, tra virgolette, queste strutture e diventa per alcuni versi un utilissimo strumento per farli avvicinare al CERT, perché poi l'importante è che tutto ciò porti a una riduzione del danno per quanto mi riguarda. Cioè, quello che anche io ho capito è che la riduzione del danno diventa fondamentale, diventa uno strumento che ti permette di far sì che queste persone possano condurre una vita normale, perché sono uguali a tutti noi, forse però hanno fatto delle scelte diverse. Ecco, proprio in base a queste ultime cose che dicevi, più o meno indicativamente, le persone che hai seguito che storie hanno? C'è qualche cosa che accomuna questi percorsi? Sì, molto spesso sono persone che hanno avuto, diciamo, problemi affettivi o familiari e che hanno trovato nelle sostanze un rifugio molto, molto spesso. Quindi molto spesso sono persone che hanno messo in atto, diciamo, meccanismi di dipendenza anche con esseri umani. Questi meccanismi che a volte non si riescono a sbloccare, poi spesso si sfociano, insomma, nell'utilizzo di sostanze come appunto l'eroina, la cocaina, l'alcol e anche il gioco d'azzardo, perché nel mio film c'è anche un piccolo, diciamo, c'è anche un ragazzo che fa comportamenti non dipendenti, ecco. Senti, si parla di persone emarginate o in qualche modo integrate? No, è molto vario, cioè nel senso non sono tutti emarginati, assolutamente. Ovviamente la difficoltà che ho avuto è stata proprio quella di far capire alle persone che io non volevo denunciare nulla, sì, ma semplicemente raccontare le loro storie con il mio sguardo, perché ho sempre pensato che, perché prima io, insomma, vedevo questo luogo con paura e non mi sembrava giusto, diciamo, giudicare. Mi sembrava più invece importante anche per me stare lì ad osservare e magari creare quelle relazioni che poi mi hanno permesso di seguire le persone anche in momenti molto, diciamo, intimi, quali colloqui tra medici e pazienti. Però, diciamo, anche i medici sono delle figure importanti, sì, perché è anche grazie a loro che io sono riuscita a fare una serie di riprese, perché molto spesso i medici tendevano, soprattutto all'inizio, magari a mostrare la parte migliore, e questo a me non interessava, mi interessava la relazione che c'era tra loro. È proprio questa strana cosa che si crea tra il medico e il paziente che a volte riesce a far sbloccare quel meccanismo. Ecco, il punto di vista di chi cura, per quello che hai vissuto? Il punto di vista di chi cura è molto difficile fare questo lavoro, però è purtroppo molto spesso i medici dei CERT, i medici delle tossicodipendenze, sono considerati medici di secondo livello. E io sinceramente mi sono chiesta come mai e non ho trovato risposta, nel senso che per me non sono affatto medici di secondo livello, ma si trovano ad affrontare situazioni molto molto complesse, rischiose. No, il film comincia con un camper che arriva alla stazione di Piazza Garibaldi, perché appunto è il primo approccio per la riduzione del danno. Mm-hmm. E poi comincia e arriva al CERT. E da lì non mi sono quasi mai più mossa, quindi e infatti il film comincia e finisce lì, diciamo. Mm-hmm. E la riduzione del danno è un qualcosa che espone i dottori, assolutamente, gli infermieri, cioè sulla strada. Quindi il loro punto di vista è abbastanza, diciamo, faticoso, il loro lavoro, per quello che io ho visto. Mm-hmm. Senti, in chiusura, Claudia, che percorso avrà il tuo documentario? L'ho conosciuto al Salina Doc Fest, era in programmazione, e dopodiché che strade prenderà? Allora, io, no, è la mia prima cosa, cioè è la mia prima opera, ci tengo moltissimo perché ci ho lavorato molti anni. Vabbè, a Salina ha vinto 2 premi, il premio del pubblico, una menzione della giuria, anche a Napoli c'è stata una proiezione dove ho vinto, insomma, migliore autoproduzione. Per fortuna le autoproduzioni, diciamo, si evolvono, nel senso che c'è una produzione adesso che mi sostiene, che è la Kino Produzioni, e sono molto felice di questo, e stiamo aspettando, siamo in attesa di altri festival e magari di una distribuzione, però è un processo lento, e questo anche, sì, così come il documentario è un qualcosa che avviene molto lentamente, anche quello produttivo è un percorso lento. Senti, hai dei luoghi internet di riferimento per chi volesse saperne di più? No, ancora no, però piano piano arriveranno, ci okay. sarà un sito internet a breve, okay. però sul sito della Kino Produzioni si trova sicuramente il trailer e anche più informazioni sul film. Benissimo, allora magari ci sentiremo per le prossime novità. Magari. Claudia, dimmi. Grazie mille. Claudia, un abbraccio e alla prossima, dai. Alla prossima, grazie, ciao. Ciao. Claudia Brignone, regista del documentario La malattia del desiderio. Siamo al nostro appuntamento quasi mensile con Distribuzioni dal Basso. Andrea Paco Mariani, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Allora, quello di dicembre è un nuovo appuntamento per le novità. Di cosa si tratta, Paco, questo mese? Sì, per questo mese abbiamo 2 grosse novità che vogliamo segnalarvi. La prima è anzitutto un'apertura di collaborazione con Filippo Vendemmiati, che tra l'altro avete, credo, avuto ospite in trasmissione oggi. Sì, lo sentiremo fra poco. Ah, ok, perfetto, ti ho rovinato tutto, scusami. Okay. Nel senso che appunto con lui abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione che ha in questo momento portato all'inserimento nel catalogo di È stato morto un ragazzo, che è il famoso documentario appunto firmato da Vendemmiati sulla vicenda di Federico Aldrovandi. Documentario che è già uscito alcuni anni fa, ma chiaramente per noi è stato un importantissimo passo anche nell'apertura verso appunto un panorama di registi più diciamo affermati, se vogliamo, e soprattutto anche perché è dal punto di vista della funzione sociale e politica di un documentario è un film molto importante. Anche in virtù di questo, nella scheda del film sul sito di Distribuzioni dal Basso, oltre alle solite funzioni per poter richiedere il DVD o il file in download, abbiamo messo anche lo streaming gratuito, proprio perché fa parte di quella tipologia di documentari che riteniamo comunque mantenere il più possibile aperta a tutti, anche a prescindere da una donazione, diciamo. Sì. Paco? Ti abbiamo recuperato, Paco, eccoci. Sì, dicevo, in conclusione per quanto riguarda la collaborazione con Vendemmiati, per ora abbiamo lanciato questo documentario, ma nei prossimi mesi, sempre con Filippo, stiamo aprendo una collaborazione di più ampio respiro ed è molto probabile che arriveranno in catalogo anche altri suoi lavori. E l'altra grande novità invece per questo mese è un documentario uscito quest'anno, realizzato da questo collettivo di Roma, che ci tenevamo molto ad avere in catalogo, che è appunto Un Monte d'Acqua, che è un documentario interamente dedicato alla vicenda della geotermia sul Monte Amiata in Toscana, e che è una vicenda che conosciamo bene anche perché in catalogo abbiamo già un altro lavoro che parla anche di Amiata, che è appunto Green Lies, che dico abbiamo già parlato nei mesi scorsi, per cui c'è, dal nostro punto di vista, era molto interessante e importante invitare i ragazzi all'interno del nostro catalogo anche proprio per un'affinità di ragionamento che si è fatto anche sul lavoro di Green Lies. Quindi è un documentario che, attraverso esclusivamente il caso specifico della geotermia in Amiata, mostra anche esso tutta una serie di problemi legati alla speculazione finanziaria che si sono scatenati sopra lo sviluppo della green economy e delle rinnovabili in Italia. Dopodiché stiamo adesso lavorando, come avevamo accennato già il mese scorso, ed è molto probabile che già da gennaio riusciremo a lanciarlo. Apriremo anche una sezione archivio storico dei movimenti, che sarà interamente gratuita e in streaming, dove, attraverso la correlazione con alcuni archivi storici, appunto tra cui l'archivio Lorusso Giuliani di Bologna, stiamo digitalizzando tutto un panorama di preziosissimi materiali, spesso in VHS, legati o al movimento del 77 o al G8 di Genova del 2001, e da gennaio, se tutto va bene, ci sarà proprio una sezione interamente dedicata alla possibilità per gli utenti non solo di visionare, ma anche di utilizzare questi materiali, che chiaramente, capirete bene, hanno un'importanza anche storica, se vogliamo, molto molto importante. Non ci fermeremo neanche durante le feste. Bene Paco, allora abbiamo fatto anche un quadro di quello che succede in questo mese, ci sentiamo per le prossime. Volentierissimo, come sempre. Buone feste allora. Grazie anche a voi, a ciao. Presto. Ciao a Paco. Presto. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso sulle novità di dicembre. Con noi Francesco Merini, co-regista del documentario L'Orchestra, Claudio Abbado e i musicisti della Mozart, uscito in questi giorni in DVD. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao. Allora, mi sa che è la prima volta che ce ne occupiamo di questo lavoro, per cui raccontacelo un po'. Sì, il lavoro anche in realtà ha radici lontane, perché da 10 anni, per un arco di 10 anni, con Helmut Failoni, il coautore del film, abbiamo seguito il lavoro di Claudio Abbado, e nel 2005, da un lavoro che è partito nel 2005 e si è concluso nel 2006, è uscito L'altra voce della musica, che è stato pubblicato dal Saggiatore, che racconta il sistema musicale, lo straordinario sistema musicale venezuelano, attraverso l'esperienza che Claudio Abbado ha fatto, appunto, suonando con le orchestre giovanili venezuelane. E all'inizio è stato un percorso che non si è mai interrotto. Dopo quell'esperienza abbiamo cominciato a pensare, avevamo voglia di fare un altro film. In realtà, in questo caso, come allora, c'era il Venezuela raccontato attraverso lo sguardo di Abbado. In questo caso avevamo voglia di raccontare un'orchestra di musica sinfonica da dentro, e togliendo quella patina di stereotipi che si sono cristallizzati sui musicisti classici, cioè intellettuali fuori dal mondo. Poi scavare un po' in un'orchestra europea, in questo caso, quindi c'è Abbado, l'orchestra Mozart, l'orchestra che Abbado ha diretto dal 2004 al 2014 a Bologna, e abbiamo scelto questa orchestra, abbiamo viaggiato con l'orchestra, provato a raccontarla da dentro, approfondendo appunto alcuni musicisti, la loro storia, il loro vissuto, il loro percorso, e su tutto, come tra gli union, diciamo così, c'è la figura di Abbado. Però appunto si chiama L'Orchestra proprio perché l'obiettivo era, il desiderio e quello che volevamo fare era raccontare un'orchestra di musica sinfonica appunto, da dentro, e questo è un po' tutto il percorso che abbiamo fatto e il cuore di questo film. Ecco, a proposito del superamento degli stereotipi e del da di dentro, dal appunto dal di dentro, e che realtà avete scoperto? Qual è la vita di un'orchestra? E quali sono le cose che vi hanno sorpreso? Poi noi ovviamente volevamo fare questo film anche perché conoscevamo già i musicisti, eccetera, eccetera. E quindi volevamo provare a raccontarne appunto in modo un po' più sincero, in modo un po' più naturale, al di fuori appunto di questi stereotipi che dicevo, che ovviamente poi si cristallizzano proprio quando il musicista deve parlare in pubblico come persona, cioè si uniforma, e noi gli abbiamo chiesto allora, e questo è anche molto grazie al lavoro di Helmut, che conosce molto bene, conosceva già molti musicisti molto bene, gli abbiamo chiesto di uscire dal personaggio e di essere se stessi, quello che ci interessava a noi, perché è un po' quello che deve fare il documentario, credo. E quindi abbiamo scelto musicisti molto diversi, da appunto quelli più un po' più cacciaroni, seguitori, eccetera, un po' più così, a quelli che invece forse sono più filosofi, più intellettuali, da appunto abbiamo un altro musicista del, abbiamo raccontato di nuovo un po' il Venezuela attraverso questo ragazzino giovanissimo che ha questo istituto giovanile appunto drammatico della Caracas, appunto in cui sono sempre in bilico tra la criminalità e questa opportunità della musica che gli cambia la vita, e musicisti molto diversi che ci accompagnano in questo viaggio. E poi la Mozart era anche un'orchestra un po' diversa, perché era un'orchestra non come quelle di solito sono orchestre stabili, ma era un'orchestra appunto di musicisti che si riuniva in occasione dei concerti, quindi c'era uno spirito un po' diverso, meno diciamo da impiegatizio, perché le orchestre poi alla fine finiscono per inevitabilmente quando dentro il lavoro molto ripetitivo, così invece questa è un'orchestra che ha questa energia dovuta a Bado, è dovuta a questa modalità, è dovuta anche al fatto che a Bado sceglieva, come dice un'altra giovane violinista, Federica Vignone nel film, si sa, forse non se ne rendeva neanche conto, ma sceglieva le bravi musicisti, anche persone particolari, con un vissuto importante, un'umanità particolare che noi abbiamo cercato appunto di raccontare nel film. Senti, abbiamo parlato un po' dell'orchestra, la figura di Abbado appunto, noi abbiamo fatto questi due film in cui abbiamo lo raccontiamo nel suo, in questa passione totale per la musica, nell'impegno sociale, che è una cosa che lui è sempre portato avanti, una convinzione che la musica può migliorare le persone, appunto i progetti speciali, la musica in carcere, la musica in ospedale, sempre questa tensione pazzesca appunto per la musica, sulla musica e sull'importanza che può avere nella società, indirettamente, cioè la musica, la conoscenza della musica può migliorare, e poi sul fatto che direttamente si può utilizzare anche per fare dei progetti sociali, e quindi insomma noi abbiamo raccontato appunto anche questa, cercato di raccontare questa sua visione del suo lavoro che portava avanti con una passione smisurata, però insomma lui poi il suo percorso, le sue idee sono abbastanza note, sono portate avanti con grande chiarezza, quindi ritornano ovviamente anche nei nostri film, appunto di quello del Matteo Tammuz, che sul suo viaggio venezuelano, in cui mette in pratica proprio questa cosa, e poi insomma, sceglie di andare a fare musica con questi giovani venezuelani, che sono l'orchestra più l'orchestra europea più classica, però anche l'orchestra Mozart atipica, e quindi anche lì mescolare un'orchestra che si mescolano grandissimi solisti e giovani venuti fuori, scovati da lui, che suonano insieme in un mix particolare. Ho suonato anche tante orchestre giovanili, ho questa idea appunto queste orchestre giovanili, invece la Mozart faceva questo esperimento, che ha continuato a sperimentare su tutti i livelli, anche appunto nel DVD c'è anche una lunga intervista a Renzo Piano con cui ha collaborato a lungo. Anche Renzo Piano diceva come lui metteva compatta l'orchestra per ottenere un determinato suono, quindi dal posizionamento dei musicisti al fatto appunto in questo caso di prendere musicisti giovani, musicisti esperti, mescolarli, le orchestre giovanili, c'era una continua sperimentazione su tutti i piani. Ecco, prima dicevi del ruolo sociale della musica per Abbado e volevo chiederti che capacità ha questa orchestra di impatto sociale? Ma come dicevo prima, c'è un discorso dell'idea che la musica la conosce, che poi per me poi diventa metafora della cultura, poi certo, è una banalità, però insomma il fatto che la cultura, e anche Renzo Piano sempre dice anche in intervista, ci racconta di come insomma gli spazi della cultura, gli spazi della musica dentro dei luoghi di civiltà all'interno delle città, e il fatto di esserci, di essere insieme, di ascoltare un concerto, di fare musica, già questo ha un ruolo importantissimo. In più c'è l'idea, come dicevo prima, del fare dei progetti, quindi la musica in carcere, la musica in ospedale, aprire le strade, rendere anche le strade, avere sempre dei prezzi per tutti, cosa che fa molto in Germania, in Inghilterra, Italia si prova. E quindi appunto questa doppia cosa, una progettualità, il fatto di fare musica, e adesso so che il sistema venezuelano, molti degli aspetti del sistema, dei progetti del sistema venezuelano sono stati importati anche in Italia, ad esempio questa cosa straordinaria del Manos Blancas, che è il progetto per fare musica con sordomuti che suonano col linguaggio gestuale. E quindi ripeto, questo doppio piano, no, della sì, musica come strumento di sociale in quanto musica, e poi di tutte le cose che si possono fare per migliorare la società. Sì, sì, sì. Bene, l'orchestra esce in questi giorni in DVD, ci sono dei vostri riferimenti internet per maggiori informazioni? Allora, sì, l'orchestra esce in DVD, è già uscito con la Cineteca di Bologna. Sì. Tra l'altro uscirà a breve anche una versione internazionale con Euroart di Berlino, che lo fa sarà in giapponese, coreano, tedesco, inglese, francese, e dovrebbe uscire a gennaio, credo, però insomma questa è una cosa che ci fa molto piacere. Però intanto per l'edizione italiana Cineteca di Bologna si può trovare sul sito della Cineteca di Bologna, oppure per approfondire tutte le informazioni sul sito della nostra società, che è mammutfilm.it, oppure c'è anche su una pagina Facebook l'orchestra, che si può seguire tutto il percorso distributivo e del film. Benissimo. Francesco, io ti ringrazio, un abbraccio e alle prossime novità. Ok, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Francesco Merini, coregista del documentario L'Orchestra, Claudio Abbado e i musicisti della Mozart, uscito in DVD proprio in questi giorni. Silvia Josmin, regista del documentario Nessuno mi piange. E buongiorno. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, Silvia. Grazie mille. Allora, cominciamo a parlare di questo tuo lavoro, perché poi ci introdurrà ad un discorso un po' più allargato. Nessuno mi piange, cosa racconta, Silvia? Allora, diciamo che racconta la storia di un detenuto che io ho conosciuto all'interno del carcere di Padova. Non volevo fare un lavoro sul carcere in generale, o volevo parlare dell'affettività all'interno del carcere. Diciamo che la scelta di questo protagonista è avvenuta un po' per caso e un po' anche per sfida, nel senso che io lo conoscevo da poco tempo, ma sapevo che volevo fare questo lavoro e affrontare questo problema, che è un problema cardine all'interno delle nostre carceri. Quindi lo conoscevo poco e lui ha cominciato a raccontarmi la sua storia e ho capito da subito che non era una storia di affettività. Io avrei dovuto raccontare la mancanza di affettività all'interno del carcere, quindi avrei dovuto raccontare un'assenza, ed è qualcosa che mi ha mi ha da subito stimolato, diciamo, e quindi in questo senso un po' per caso, un po' per sfida è successo. E il lavoro che io ho fatto, cioè l'idea del corto, è nata all'interno di un laboratorio che è stato organizzato da Zalab, a cui ho partecipato l'anno scorso. Zalab è un'associazione che promuove il video partecipativo e produce anche documentari, ed è, diciamo, io ci sono affezionata, a una realtà davvero preziosa del territorio dove vivo. E all'interno di questo laboratorio, che si chiamava Il racconto del reale, mi hanno proposto come corsista di portare una storia da raccontare. E quindi, essendo volontaria da diversi anni all'interno della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, ho deciso, appunto, mi sembrava istintivo parlare di questa mia esperienza. All'interno del carcere esiste la redazione di un telegiornale che si chiama TG2 Palazzi, di cui appunto io sono volontaria, e aiuto i detenuti nella realizzazione di questi servizi televisivi. Sì. E quindi niente, io ho deciso appunto di raccontare questa storia. E si inserisce questo tuo lavoro all'interno di un progetto, come dicevo all'inizio, più ampio, per sì. Ovvero sia una campagna, la campagna Per qualche metro e un po' di amore in più. Ce okay. ne parli un po', Silvia? Sì, allora diciamo che il... la campagna non riguarda solamente i detenuti, è una campagna che è nata all'interno della redazione di un giornale, perché all'interno del carcere di Padova esiste anche un giornale che si chiama Ristretti Orizzonti, e la redazione è tutta composta da detenuti. La particolarità di questo giornale è appunto che non ci scrivono esperti di carcere o psicologi, educatori, ma ci scrivono proprio i detenuti, raccontano le loro storie di vita e raccontano anche la loro esperienza di detenzione. E all'interno di questa redazione è nata l'idea di lanciare una campagna che si chiama per un po' d'amore qualche metro in più. E la campagna però non riguarda appunto solo i detenuti, ma riguarda anche i familiari dei detenuti. Le nostre carceri non sono disumane solo perché sono sovraffollate, ma anche per come trattano i familiari dei detenuti. I detenuti hanno 6 ore al mese di colloquio con i propri familiari e solo 10 minuti di telefonate a settimana. Gli spazi per gli incontri sono spesso tristi e sovraffollati, come il carcere stesso. Le attese sono lunghissime, estenuanti e sono spesso umilianti. I familiari si sottopongono a delle perquisizioni, ma gli adulti come i bambini. E quindi questa è una petizione per chiedere anche di occuparsi delle famiglie dei detenuti, cercare delle nuove misure per tutelarle. Mm-hmm. E speriamo che questa diventi poi una proposta di legge in Parlamento, una legge anche per concedere più telefonate, come avviene in moltissimi altri paesi del mondo, e per consentire anche dei colloqui riservati. Mm-hmm. Diciamo che è una legge che cerca di aiutare a salvare l'affetto delle famiglie delle persone detenute, perché così si produrrebbe tra l'altro una sicurezza sociale che è molto più importante, molto più nobile della semplice sicurezza di cui di solito sentiamo parlare nei telegiornali. Mm-hmm. Spesso la recidiva dei detenuti, che significa il perpetrarsi di nuovo degli stessi crimini commessi una volta entrati dopo essere usciti, aumenta se manca un legame affettivo. Una persona che esce non sa dove andare, non sa chi chiedere aiuto, non sa in che casa vivere, molto spesso è una persona che torna a ricommettere lo stesso reato di quando è entrata, se non reati peggiori. Volevo chiederti come si articola questa campagna, sia dal punto di vista legislativo che di iniziative. Allora, iniziative ne sono state fatte diverse all'interno delle carceri. Sì. Perché appunto è una petizione che è partita prima dal carcere di Padova, ma che poi diciamo ha coinvolto in maniera capillare anche tantissime altre carceri italiane, dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta. A questa petizione, a questa campagna possono firmare tutti, quindi non solo cittadini familiari di detenuti, ma anche cittadini liberi. Diciamo che le cose che sono state fatte sono state dei convegni di sensibilizzazione sull'affettività all'interno del carcere. Nel mio caso, con il documentario sono state fatte diverse proiezioni, e ancora ce ne saranno a Padova e in provincia, per raccogliere appunto firme per la petizione. Benissimo. Senti, a questo punto diamo come riferimenti sia per il tuo lavoro che per la campagna, immagino, Zalab, il sito internet. Certo. Di Zalab. Sì, Allora, per poter firmare la petizione, www.zalab.org, nella sezione di progetti si trova la pagina dedicata appunto al cortometraggio, e anche la possibilità poi di poter firmare la petizione, oppure anche attraverso il blog del Racconto del Reale, perché è appunto il laboratorio che ho seguito io, dal blog, che è il raccontoderreale.wordpress.com, ci sono sia i racconti sulle proiezioni che sono già state fatte, e sia la possibilità di essere rimandati poi alla petizione, poterla firmare. Benissimo. Silvia, io ti ringrazio, ti abbraccio e ci sentiamo poi per le novità. Grazie mille, grazie a voi. Ciao, a presto. Arrivederci. Questa era Silvia Josmin, regista del documentario Nessuno mi piange, per parlarci anche della campagna Per qualche metro e un po' di amore in più. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, mentre tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni visionari, e sulla pagina Facebook di Visionari. Lì trovate tutti gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 18 dicembre, i nostri indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e infine il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio del 2014 e del 2013. Bene, ritroviamo puntualissimo Alberto Buglé, ci sei? Sì, sono qui. Oh, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Alberto. Grazie, ben trovati voi. Ci eravamo sentiti nello scorso mese di maggio per parlare di un tuo lavoro che era stato girato su una piccola isola della Sicilia e è diventato adesso DVD. Stiamo parlando dell'Ultimo giorno, raccontacelo nuovamente, Alberto. Sì, molto volentieri. Si tratta di un documentario molto particolare, direi, un po' innanzitutto per la storia che racconta. È la storia di una maestra, di Teresa Per, che da Milano un giorno di 15 anni fa decide di partire, di dedicarsi alla scuola dell'isola più piccola, dell'isola di Alicudi, e ne fa la sua missione. La scuola sulla piccola isola diventa la missione della sua vita, e si trova davanti a una situazione molto molto difficile, perché al di là della cartolina forse estiva a cui siamo un po' abituati riguardo alle olie, della bellezza, della natura, si tratta di contesti estremamente sociali, estremamente complessi, che vivono, diciamo, in un grande isolamento geografico e culturale, dove crescere è estremamente difficile, e i ragazzi portano a scuola una rabbia, una ribellione estremamente difficile da contenere, spesso davvero incontenibile. Mm-hmm. Ma Teresa si dedica a questi ragazzi con tutta la sua passione, soprattutto con tutta la sua capacità di maestra e insegnante d'avanguardia. Nell'insegnamento di Teresa praticamente si ritrova la tradizione dell'innovazione pedagogica italiana, da Don Milani a Mario Lodi, e Teresa la porta sull'ultima isola proprio per fare della scuola un avamposto del progresso, potremmo dire, e soprattutto, diciamo, per dare e garantire i pieni diritti di cittadinanza anche ai bambini dell'isola più piccola, anche agli ultimi bambini. Mm. Questo documentario appunto nasce anche, è particolare anche per come nasce, per la storia della produzione, perché questi ragazzi sono stati anche miei alunni per un breve periodo in un laboratorio video che ho fatto ad Alicudi nel 2008, ed è così che li ho conosciuti, ed è così che ho conosciuto Teresa, ed è da lì che è nata la voglia di raccontare questa storia, e storia che ho potuto seguire con un lungo lavoro di osservazione durante quasi 4 anni, e che alla fine si è potuto completare, come dicevamo prima, grazie a una campagna di crowdfunding, segnalata anche grazie a Radio Onda Rossa il primo maggio scorso, e che ha visto il coinvolgimento di molte persone, almeno 99 sostenitori dall'Italia, ma non soltanto, anche da molti altri paesi europei, perché in fondo la scuola è un tema che riguarda tutti. E ecco, questo film adesso esce finalmente, grazie a questa spinta, a questo impulso dato dalla campagna di crowdfunding crowdfunding, esce a Messina, che è un po' la città capoluogo, se vogliamo, nel territorio delle isole, non soltanto geograficamente ma direi anche dal punto di vista fotografico, è un po' quell'area di luce e di bellezza e anche di complessità e di difficoltà. Vorrei dire anche che questo, che prosegue anche quest'idea di coniugare da una parte il racconto di prossimità, no? Molto vicino alle persone, alle vicende umane più minute nel contesto della piccola isola, con l'osservazione, con gli strumenti di partecipazione online e del web, da una parte la campagna e adesso non il DVD ma il VOD, no? Il video on demand, perché il film esce domani a Messina, appunto, in collaborazione con la Messina Film Commission, ma contemporaneamente esce on demand su internet per tutto il periodo natalizio su www.scuoladialicudi.tk, in modo tale che appunto questo racconto possa continuare a camminare grazie alle condivisioni, a camminare grazie alle reti sociali, a camminare in un modo diverso, così come è nato, ed è per questo che diciamo l'idea è quella di proporla davvero come un film di Natale, forse davvero diverso, un po' per i contenuti, per parlare, per ricominciare l'anno parlando di una scuola davvero diversa e anche per i metodi di produzione e infine anche di distribuzione. Alberto, le tue parole mi facevano venire in mente alcuni lavori di cui ci stiamo occupando in particolare nelle ultime settimane, sto parlando dei documenti, soprattutto di documentari, cioè l'importanza fondamentale dell'arte, della cultura per la liberazione delle persone, per la crescita delle persone. E in questo caso partiamo da un tassello basilare e fondamentale, che è quello dell'istruzione. Certo, e si tratta infatti di una storia che sicuramente è la storia di Alicudi e dei suoi ragazzi, ma in realtà appunto quel piccolo microcosmo si diventa velocemente una metafora di una storia che è la storia di tutti, che è quella dell'incertezza, della difficoltà di crescere e dell'uscire dalla propria isola, no? Dell'uscire da sé. Il contesto dell'isola piccola è un po' quello che ci portiamo dentro tutti quanti, la difficoltà di portare se stessi in uno spazio condiviso, in uno spazio pubblico, che quindi è quella della scuola, è in fondo la storia del voler crescere oppure del voler rifugiarsi, del voler fuggire dal mondo. E per questo, diciamo così, l'ho voluto raccontare con un documentario che è evidentemente un omaggio a queste piccole vite aggrappate a uno scoglio, ma che forse in qualche modo spero possa parlare un po' al cuore di tutti. Senti, volevo chiederti anche la tua protagonista nel corso di questi tempi, di quanti ragazzi e ragazze si è occupata dal punto di vista scolastico? Ma dunque nel corso di questi 15 anni Teresa Perre ha praticamente cresciuto molte generazioni di alicudari, i numeri esatti non so, non li conosco, ma probabilmente si tratta di almeno 50-60 ragazzi. Negli ultimi anni la popolazione, diciamo, di giovane dell'isola è andata calando. Il documentario racconta la vicenda degli ultimi 3 alunni di Teresa Perre. La scuola sembrava dovesse chiudere con l'uscita dei ragazzi dalla scuola, ma quest'anno c'è stata una felice novità, anche perché la scuola continua a rimanere aperta. Quest'anno si sono iscritti altri 2 bambini, quindi la scuola è ancora più piccola di prima, ancora più piccola di quella che si racconta nel documentario. Teresa Perre nel frattempo è andata in pensione e al posto suo c'è una nuova insegnante, che però è lì proprio grazie agli sforzi di Teresa, che veramente si è battuta con tutta la sua capacità e la sua passione perché questo avamposto fosse veramente importante per la comunità e non soltanto per lei, per la sua carriera, per la sua storia professionale. E in questo modo il suo progetto è stato alla fine adottato e pienamente appoggiato anche dall'istituto da cui dipende la scuola, che è l'istituto di Pari 1, l'idea è quella, nel momento in cui la scuola dovesse veramente chiudere per mancanza di alunni, l'ultimo progetto di Teresa è quello di trasformarla in un museo della memoria e dell'identità dell'isola. E voglio, tra l'altro, i VOD che lanciamo in questo momento, quindi gli incassi del documentario saranno destinati proprio a questo progetto per il futuro, quello di allestire all'interno dei locali della scuola questo museo audiovisivo della memoria dell'isola, in modo tale che, appunto, come dicevamo prima, la dimensione artistica, il linguaggio espressivo, la ricerca sia un modo per restituire ai luoghi, anche quelli più remoti, una parte della loro storia e della loro identità. Alberto, qual è l'atteggiamento degli ex alunni e più in generale degli isolani nei confronti di questa insegnante, di questa esperienza? Ma devo dire che i ragazzi sono estremamente affezionati a Teresa Perre, e anche perché, soprattutto questi protagonisti del documentario, anche perché è stata per loro, diciamo così, l'unico riferimento adulto esterno alla famiglia, a partire dalle scuole elementari fino alla scuola media, anche perché Teresa, che pure è un'insegnante elementare, li ha poi accompagnati di fatto, affiancando il lavoro delle colleghe e dei colleghi che pure lavoravano sull'isola, le ha accompagnati fino alle soglie della terza media. Quindi la cosa importante è proprio questa, che Teresa è l'unica persona sull'isola, è l'unico riferimento adulto che è in grado di tirare fuori da questi ragazzi, che molto spesso sono costretti a crescere troppo in fretta in un contesto che li vuole molto adulti e spesso anche violenti molto presto. Ecco, Teresa è l'unica che riesce a mantenere vivo in loro un barlume di infanzia genuina, e che quindi anche laddove si scatena il conflitto, si scatena la rabbia, si scatena il rifiuto della scuola come istituzione, come proposta, come scommessa di crescere, ecco, è proprio là che con Teresa invece i ragazzi tornano bambini, e quindi tornano ad avere una speranza, una possibilità di intraprendere un percorso diverso, ecco, di rompere un po' il cerchio dell'orizzonte, di uscire dalle dinamiche immobili e difficili da modificare dell'isola stessa. Bene. Alberto, chiudiamo ricordando i riferimenti per saperne di più in rete? Sì, certo. Il documentario allora sarà disponibile in VOD da domani su www.scuoladialicudi.tk, in realtà in prevendita già in questi giorni, quindi è già possibile andare sul sito e eventualmente prenotare la propria visione, e sarà in anteprima a Messina da domani sera alle 20:30 al Monte di Pietà, in collaborazione con la Messina Film Commission. Alberto, un abbraccio e a sentirci presto. Grazie mille, a presto. Ciao. Alberto Buglé per parlare del suo documentario L'ultimo giorno, appena uscito in DVD. Abbiamo in collegamento Armando Mangone, co-regista del documentario La natura ispira le mani. Armando, ci sei? Sì, pronto, buonasera. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buonasera a tutti. Allora, partecipava questo lavoro a un piccolo festival dedicato alla terra e al nuovo cinema Aquila qualche tempo fa. Di cosa si parla, Armando? Qual è il tema del documentario? Dunque, il tema è quello riguardante, abbiamo realizzato l'agenzia del documentario. È un po' strana, abbiamo realizzato il documentario inizialmente in forma ridotta per la conferenza internazionale della decrescita del 2012, poi abbiamo allargato il video, l'abbiamo lavorato di più, è uscita una cosa più lunga di mezz'ora, e si tratta di un documentario che parla di pratiche agricole, non di agricoltura, nello specifico degli orti a Roma e dei vecchi saperi contadini in Calabria, quindi il documentario rimbalza tra la periferia di Roma e la provincia calabrese, nello specifico la provincia di Cosenza, quindi è un guardare anche alle nuove generazioni e alle vecchie che in qualche modo convergono su vecchi e nuovi ideali di sensibilità nei confronti della terra e della natura. Ecco, qual è il parallelo tra la periferia di Roma e la campagna vicino Cosenza? Sì, ce ne sono tanti. In verità noi volevamo guardare anche a quelle che sono a quegli ambiti che sono, diciamo, meno produttivi che dell'agricoltura, appunto pratiche agricole, ma che attribuiscono dei valori importanti nel recupero con la natura, non in una, non, diciamo, in una, in un'ottica idilliaca così ingenua, ma tenendo presente che, insomma, diciamo che le nostre capacità di osservazione nei confronti della natura, il dargli valore, sono molto ridotte da uomini contemporanei e da cittadini. Quindi l'idea era anche quella di valorizzare quegli aspetti di, diciamo, di empatici, oltre a descrivere quali erano le varie, diciamo, le varie storie. Poi ogni documentario è composto da una carrellata di volti e di racconti diversi, quindi l'ultra settantenne che coltiva il suo orto in un luogo molto difficile da raggiungere, l'ortista romano che si trova a coltivare il proprio orto invece a qualche metro di distanza da una fermata metro. Ed era interessante guardare come in effetti si ascoltavano, poi alla fine si ascoltavano, erano le stesse motivazioni che al fondo delle loro storie muovevano le mani. Mm-hmm. Quindi era questo. Poi è bello guardare, insomma, quelle realtà che in questo periodo si sono mosse anche nell'ambito cittadino qui a Roma, di occupazioni diciamo di orti sociali biologici. Addirittura siamo saliti su una, c'era un hotel vicino a Roma, anche un hotel, diciamo, abbastanza di lusso, che aveva realizzato degli orti sopra, diciamo, sopra il suo tetto per, diciamo, per rifornire il proprio ristorante di alcune chilometro zero aromatiche. Sì. Quindi c'erano cose anche curiose, insomma, ognuno, insomma, la interpreta in maniera diversa la cosa. Allora, ascoltandoti mi viene subito una domanda rispetto alla parte iniziale. Gli antichi saperi contadini riescono ad essere trasmessi o c'è il rischio che vadano perduti, Armando? Sì, si tratta proprio di sono momenti molto belli. Sì, rischiano di andare perduti. Ci sono dei momenti che spesso, quando abbiamo fatto vedere il documentario in giro per l'Italia, tra cui non da ultimo al Festival delle Terre qui a Roma, che c'è un momento che suscita ilarità e che invece è un momento fondamentale, tutti poi comunque lo capiscono, in cui un contadino calabrese parla con sgomento della impossibilità di riprodursi delle proprie galline. Cioè, queste persone sono nate e cresciute in una società, in una condizione ambientale in cui non c'era bisogno di rivolgersi, diciamo, agli allevamenti di polli, di galline, ma diciamo le nuove generazioni venivano da sé, con le tre uova che venivano covate, trattenute e poi generavano nuovi animali, quindi indipendenti, assolutamente indipendenti dall'industria. A un certo punto la catena si è rotta e loro, diciamo, sgomenti raccontavano come questa cosa, come una cosa che non si era mai verificata e dalla quale non riescono più comunque a liberarsi, cioè la dipendenza da un'idea, diciamo, di sviluppo di carattere, diciamo, accentratore, diciamo. Mm-hmm. Che vede nell'industria, quindi era significativo questa cosa, veramente significativa, come diciamo. Mm-hmm. Si attribuisse a inquinamento, altri fattori, adesso poi localizzare, cioè, diciamo che poi verificare quali siano i reali motivi di queste cose poi è anche difficile, ma non ci interessava più di tanto, però era un segnale forte. Sì. Oh, ci dicevi anche di diverse pratiche agricole, ci ha parlato di, per esempio, di degli orti urbani, ci puoi fare altri esempi, Armando? Ci sono gli orti urbani, sicuramente noi parliamo molto di orti urbani e parliamo di agricoltura nel senso più tradizionale del termine. Sì. Quindi sono questi gli ambiti in cui ci siamo mossi. Abbiamo guardato in particolare a quelli che sono gli orti che si sviluppano qui nella capitale, anche in zone non periferiche, ma anche in zone abbastanza centrali, andando alla Fattoria Verde. Invece è un luogo in cui la Fattoria Verde sta a Polidoro, ed è una fattoria che in effetti non produce generi alimentari, ma sperimenta pet therapy, quindi usa gli animali come liberatori, no? Gli animali sono linguisticamente lontani da noi, quindi non abbiamo delle volte capacità di espugnare questa diversità, ed invece i bambini sono affetti da diversi disturbi psicologici riescono a trovare la loro comunicazione proprio in quelli che la distanza si ribalta, e questi animali diventano dei luoghi in cui i bambini si possono esprimere. Ecco, mm-hmm. Questo è un altro segno di una vitalità nei confronti, che l'osservazione nei confronti della natura genera anche queste belle sorprese. Ci dai a questo punto dei riferimenti per saperne di più sul vostro lavoro in rete? Sì, allora noi abbiamo un sito www.lanaturaispiralemani.it, potete trovarci lì, quindi presto caricheremo un intero video su YouTube e potrà essere visto da chiunque lo voglia. Benissimo, allora un abbraccio e ti ringrazio e alla prossima. Grazie a voi. Ciao Armando. Buona serata. Bene, questo era Armando Mangone, regista del documentario La natura ispira le mani. E in linea abbiamo Filippo Vendemmiati, regista del documentario Meno male è lunedì, che sarà in programmazione in un cinema a Spoleto dal 19 al 21 dicembre prossimi. Filippo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi di avermi invitato come sempre. Tra l'altro sei stato citato perché poco fa abbiamo sentito Paco di Distribuzioni dal Basso e ci ha parlato di questa nuova collaborazione con loro. Sì, che riguarda il primo film, che era stato morto un ragazzo, quello dedicato alla morte di Federico Aldrovandi, che da pochi giorni è in distribuzione online nel sito appunto Distribuzioni dal Basso, un esperimento che abbiamo intrapreso con loro, e un'altra sfida distributiva in momenti non facili che accettiamo molto volentieri e che credo faccia bene un po' a tutti. Meno male è lunedì, è stato presentato al Festival Raw di Roma poco tempo fa. Qual è il tema, Filippo? Beh, innanzitutto guarda, le notizie sono due. La prima è appunto che, come dicevi tu, il film inizia la sua vita distributiva, sì, a Spoleto. E la seconda notizia, che è in qualche modo più bella della prima, è che inizia la sua distribuzione inaugurando un nuovo cinema, che sì, di questi tempi non è facile, perché ci hanno chiamato per inaugurare il nuovo cinema Sala Pegasus, che è nel centro storico di Spoleto, nella bella città di Spoleto, in piazza Bovio, dove una volta c'era una chiesa sconsacrata. Da pochi giorni c'è un cinema che debutterà proprio domani, e questa chiesetta dedicata a San Lorenzo Illuminatore, che ho letto era il santo che ridava la vista ai ciechi e quindi mi è sembrato anche abbastanza simbolico, visto che ora si farà cinema. Insomma, credo che il santo sia contento che la chiesa sia diventata un cinema, ecco. Filippo, allora, per chi ci ascolta, raccontiamola un po' di questa storia del documentario. Sì, è una bella storia per una volta, visto che l'ambientazione è quella del carcere, perché racconta di uno spazio di lavoro, l'abbiamo chiamata l'Officina dei Detenuti, uno spazio all'interno del carcere di Bologna, dove lavorano fianco a fianco 15 detenuti assunti con un contratto a tempo indeterminato da tre aziende, e lavorano a fianco di ex operai metalmeccanici 10 oggi in pensione. E la cosa che mi ha colpito subito dall'inizio, quando sono andato a visitare questa esperienza per capire insomma se poteva nascerci anche un film, è stato il rapporto umano incredibile che si era creato tra i detenuti e gli operai, un rapporto umano in nome del lavoro e della trasmissione della conoscenza, insomma, e quindi il lavoro proprio come libertà, non solo come produttore di merci, ma come produttore di relazioni umane, di identità, di coscienza sociale, di amicizia. Ecco, il fatto che i detenuti vivono questo luogo di lavoro come uno spazio vero e proprio di libertà, dove parlano tra loro, dove parlano con gli operai, e sono nate delle amicizie anche molto, molto profonde. E diciamo questo ambiente ci ha molto contagiato anche sul piano umano, anche durante le riprese e anche dopo, al punto che alcuni detenuti in permesso sono venuti con noi a Roma a presentare il film, ed è stata una grossa soddisfazione portarli a Roma. Ecco. Mi fa venire subito in mente delle immagini di contrasto, perché un esperimento di questo genere mi sembra piuttosto avanzato. Stavo vedendo invece l'altro giorno un documentario su girato all'interno del Lucciardone, dove c'è una realtà penitenziaria veramente sembra quasi una discarica, detenuti e abbandonati a se stessi, anziani, insomma immagini terribili. E volevo chiederti, questo esperimento quando è cominciato e come si è sviluppato, Filippo, a Bologna? L'esperienza dell'officina è nata circa 3 anni fa, grazie a 3 aziende bolognesi che hanno costituito una società all'interno del carcere, ha trovato la collaborazione della direzione del carcere e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e è nato così in modo sperimentale, e poi ha funzionato anche sul piano produttivo, al punto che già 3 dei detenuti che hanno terminato la loro pena usciti dal carcere sono stati riassunti dalle 3 aziende, perché questo diciamo è previsto nel progetto, insomma, no? Che poi i detenuti alla fine di questa esperienza all'interno del carcere continuino a lavorare. Certo, è un esperimento dai numeri molto piccoli, però dimostra come con poco, forse con un po' di intelligenza, con molta solidarietà, con qualche valore etico in più, si può fare anche profitto, perché questa è un'azienda vera e propria che ha un bilancio, quindi è conveniente anche da parte delle aziende questa officina, non è beneficenza o solidarietà, però si possono creare dei percorsi di inserimento molto, molto efficaci e che non pesano sulla collettività. Questo non deve far dimenticare ovviamente le condizioni in cui la stragrande maggioranza dei detenuti oggi vivono, perché poi al di là delle condizioni materiali, quello che pesa di più a un carcerato, e questo ci hanno raccontato, e chiamiamo così, i ragazzi della Dozza, è il tempo che non passa dentro al carcere, questo non luogo, questa mancanza di tempo, la noia, non saper che cosa fare. Ecco, per questo loro dicono, quelli che lavorano il sabato e la domenica sono i giorni peggiori, perché purtroppo non lavoriamo, ecco, e meno male lunedì, perché almeno facciamo qualcosa e ci confrontiamo con gli altri. E il film è un po' un racconto simbolico, diciamo, di una settimana lavorativa dal lunedì al lunedì successivo. Ecco, come l'avete costruito all'interno di questa settimana? Come lo avete proprio realizzato materialmente? L'abbiamo costruito raccogliendo con tutti i mezzi a disposizione, quindi concedendoci la massima libertà linguistica possibile, raccogliendo un po' in diretta tutto quello che avveniva all'interno di questa officina, e per cui ci siamo stati circa un mese, ecco, non sempre consecutivamente, ma lasciando un po' di spazio tra una settimana là e l'altra, per lasciare un po' decantare anche le emozioni, che sono state davvero molto forti, anche per controllare i materiali. E poi è nato un lungo lavoro di selezione e di sceneggiatura costruita sul montaggio in qualche modo, e abbiamo ricostruito una settimana lavorativa ideale dove mostriamo che cosa avviene. Ecco, diciamo, abbiamo scelto un manufatto simbolico che viene creato all'interno di questa officina, che produce lavorazioni ad alta tecnologia, ad alta professionalità, quindi non è una semplice catena di montaggio ripetitiva, ma vengono fatte lavorazioni molto raffinate, e abbiamo seguito la costruzione di questo manufatto affiancando in qualche modo la crescita umana del rapporto tra i detenuti e gli operai, che raccontano quello che fanno e raccontano un po' loro stessi nelle varie fasi di una giornata lavorativa, insomma, dai momenti anche piuttosto duri in cui si litiga a quelli in cui si scherza, si prende il caffè, si distribuiscono le felpe oppure si distribuiscono le buste paga, ecco, perché alla fine del mese anche il detenuto ha la busta paga, compresi i giorni di ferie che ovviamente non potrà usufruire. Questo progetto bolognese sta diventando o diventerà un esempio virtuoso, Filippo, per quello che ti è dato sapere? Guarda, io non so se queste condizioni siano ripetibili altrove, e so che è seguito con molto interesse dal Ministero e dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. E certo che qua si sono create alcune condizioni molto, molto particolari, ecco, quindi che dipendono non solo dalle aziende ma dipendono anche dalle persone. E certo, può essere adattato anche in altri luoghi, e non è facile, però quantomeno noi vogliamo un po' esemplificare che è possibile andare oltre e inventare anche modelli nuovi di reinserimento che in qualche modo sono unici in Italia, e quindi pensiamo che in qualche modo possa servire. E la cosa importante sulla distribuzione del film, che è prodotto dalla Tomato Dokken Film, è che noi, portandolo in giro autodistribuito, stiamo cercando di, laddove possibile, di usare un modello di distribuzione abbastanza capillare e molto radicato nel territorio. Mi spiego meglio: a Spoleto lo proietteremo 3 giorni in un cinema, sabato mattina all'interno del carcere di Spoleto e lunedì e martedì nelle scuole. La stessa cosa la faremo a Bologna a metà gennaio, quindi con proiezione nelle sale per alcuni giorni e proiezione in carcere poi nelle scuole. La stessa esperienza probabilmente la ripeteremo a Padova, dove c'è un'associazione che si chiama Ristretti Orizzonti, che ha una propria redazione e che lavora molto all'interno del carcere, addirittura portando 5.000 studenti all'anno all'interno del carcere, per far vedere che dentro il carcere non ci sono dei detenuti, ma ci sono delle persone che hanno speranze, che hanno modi di vivere, che hanno relazioni. Quindi cercheremo un po' di applicare, laddove possibile, questo modello distributivo e di proiezione, che in qualche modo possa aiutare anche questo progetto a svilupparsi anche da altre parti. Uno degli elementi determinanti è proprio la figura degli operai che hanno stretto questo rapporto con i detenuti. Ecco, che persone avete trovato? Delle persone straordinarie. Dopo la proiezione di Roma, uno di loro si è avvicinato ed era molto molto emozionato, anch'io devo dire, e mi ha detto: ma io mi aspettavo un film sul carcere, invece questo è un film che parla più del lavoro che del carcere. In effetti è così. Questi operai hanno ancora un senso di appartenenza con il proprio lavoro e con le aziende dalle quali provenivano fortissimo, e sono orgogliosi della propria esperienza e del proprio sapere, sono orgogliosi di poter trasmettere questa esperienza ad altri, e lo fanno, devo dirti, in modo molto molto laico, molto distaccato. E loro fin dall'inizio ci hanno detto: a noi non interessa sapere perché questi detenuti sono qua, che cosa hanno fatto. E questa cosa, devo dire, noi l'abbiamo recuperata anche nel film, cioè a noi non interessa il passato, i motivi per cui sono, non abbiamo indagato sui motivi per cui sono stati incarcerati. Certo, ci dicono gli operai, se sono qua dentro, meno che non siano innocenti, condannati ingiustamente qualcosa avranno fatto, peraltro nell'officina sono tutti detenuti con pene piuttosto gravi, insomma dai 5 anni in poi, però vivono questa esperienza con molta laicità e dicono noi li trattiamo come se fossero nostri colleghi, insomma qui non ci accorgiamo neanche di essere in carcere se non fosse per i lunghi corridoi e per i passaggi che dobbiamo fare per entrare in officina, ma dopo un po' non ci si fa più caso, quindi non ci sentiamo dei benefattori, ecco, se vogliamo fare della beneficenza non veniamo qui in carcere, quindi c'è questo rapporto nel nome del lavoro che è molto, molto stretto e davvero è un rapporto da colleghi e non da tutor, da insegnanti o da assistenti sociali, ecco questa è una cosa che mi ha colpito molto dall'inizio e forse è stato uno dei motivi principali che mi ha convinto che valeva la pena raccontare questa esperienza, soprattutto dal punto di vista di un pensionato che oggi ha più di 60, ci sono operai che hanno anche più di 70 anni, insomma, che continuano con una passione incredibile ad insegnare come si usa un trapano, come si avvita una rondella, come si usa una fresa e lo fanno veramente con una capacità professionale, con una semplicità e anche con una lingua insomma particolare. Ecco, ci sono detenuti extracomunitari che all'inizio facevano fatica a parlare e questi si è rotto una barriera quando gli operai hanno cominciato a parlare in dialetto bolognese stretto, insomma, e hanno trovato modo di capirsi, quanto sembra. Filippo, chiudiamo ricordando i riferimenti internet sul tuo lavoro? Sì, allora c'è un sito Facebook che si chiama, lo trovate facilmente a meno male lunedì, dove ci sono i trailer, dove ci sono tutti i materiali del film, le recensioni e soprattutto dove pubblicheremo il calendario delle prossime proiezioni che dopo questa prima di Spoleto, dopo Natale, dopo le feste cominceranno verso la metà di gennaio da Bologna, La Spezia, Roma e poi altre date che sono già state fissate e poi c'è il sito della società che è www.tomatodocenfilm.it e anche lì tutte le informazioni che volete ricevere sul futuro di questo film e soprattutto su questa bellissima esperienza all'interno di un carcere, almeno per una volta. Filippo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Grazie. Filippo Vendemmiati, regista del documentario Meno Male è lunedì. Parliamo ora di un festival di cui ci occupiamo praticamente ogni anno, ne parliamo con Giulia Ghigi per una campagna di crowdfunding relativa alla 22esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival che sarà a Milano dal 20 al 28 marzo prossimi, con la caratteristica che è un festival tutto al femminile. Giulia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno. Raccontaci un po' di questa avventura. Sì, come giustamente dicevi tu, il Festival Sguardi Altrove è un festival che ha una storia molto lunga perché appunto ha 22 anni ed è diretto da Patrizia Pazzo. Noi sembrerà strano perché tantissime sono le donne che lavorano nel mondo del cinema, ma sono molto poche le donne che sono ancora, che fanno il regista e che lavorano come alla regia. Perché sono solo un 7% per quanto riguarda poi le donne in Italia che fanno le registe e solo un 18% per quanto riguarda la produzione mondiale. Allora il festival ha da sempre voluto dedicare uno spazio completo e dare massimo risalto al lavoro e al talento delle donne e ci è sempre sembrato molto importante. Quest'anno, come forse sappiamo un po' tutti, Italia e la cultura sono stati fortissimi e quindi noi vogliamo continuare a mantenere il festival a un livello molto alto e abbiamo pensato di appunto costruire una campagna crowdfunding in collaborazione con mymovies.it. Questo crowdfunding è stato pensato proprio perché si potesse dare un contributo anche minimo, ma si potesse sostenere la parte del festival che più può interessare una persona. Noi abbiamo tre sezioni competitive. Io sono molto felice di dire sempre che accogliamo qualsiasi tipo di linguaggio visivo, quindi non solo il lungometraggio di finzione, ma anche il documentario, il cortometraggio e anche la videoarte. E diamo un sostegno economico, quindi un premio in denaro, per ciascuna delle sezioni competitive. Le persone che vogliono partecipare a crowdfunding possono quindi o sostenere uno di questi tre, oppure possono sostenere anche una sezione. Ci sono tantissime sezioni collaterali. Il Guardi Altrove ha sempre avuto un'attenzione speciale per i diritti umani, soprattutto per i diritti delle donne. Quest'anno ci occupiamo di diaspore territoriali e di conflitti identitari familiari. Abbiamo scelto delle aree geopolitiche che ci sembravano particolarmente interessanti, come l'Israele e la Palestina, ma anche la Tunisia, che quest'anno ha diciamo, nella Costituzione, per Costituzione gli uomini e le donne sono uguali, ma ancora all'interno della famiglia e della società chiaramente le disparità sono fortissime. E poi ci sono tantissimi altri, diciamo, regali di ricompensa, quindi si può essere giurati popolari per un prezzo bassissimo, avere delle preview, si possono vedere dei film gratis, fare delle cose insomma un po' più meno cinefile, come fare un cine aperitivo o un brunch con una regista. Senti, come è strutturata questa campagna di crowdfunding? Come funziona materialmente? Noi ci siamo iscritti a Produzioni dal Basso, quindi è possibile andare o direttamente sul sito di Produzioni dal Basso, e il nostro progetto si chiama Sostieni il cinema delle donne, regalati un festival, o altrimenti sul nostro sito, che è sguardialtrovefilmfestival.it, e lì ci sono tutte le informazioni. Ci sono 18 ricompense, vanno dalle 3 euro alle 1500 euro, e è semplicissimo, basta andare sul sito, leggere quale ricompensa si vuole ricevere e dare l'ok. Senti, visto che si parla di un festival di lunga tradizione, 22esima edizione, qualche accenno sulla storia che ha contraddistinto questa rassegna, questo festival? Sì, il festival è nato proprio da un gruppo di donne non solo appassionate di cinema, ma appunto appassionate al talento e al lavoro delle donne, che voleva far conoscere il più possibile e dare spazio possibile al loro lavoro, non perché il talento non ha, come dire, una divisione di genere, però ci sembrava importante e necessario anche porre l'attenzione sullo sguardo femminile, sulla costruzione di un racconto a partire da un punto di vista di sguardo femminile. Per cui il festival ha negli anni da sempre ospitato le maggiori registe a livello mondiale, quindi parliamo di Campion, Von Trotta e tutte le più grandi registe che ci sono state, ma al tempo stesso vuole dare anche massima importanza e massima voce anche a quelli che sono i nuovi talenti e le nuove voci della regia femminile, e quindi appunto ha da sempre voluto dare un premio in denaro e avere delle sezioni competitive che potessero proprio dare luce e incoraggiare anche quelle che sono le nuove voci della regia. Il festival ha avuto anche una parte dedicata all'arte contemporanea, che ha vantato la collaborazione con la Triennale di Milano, proprio perché ci interessano tutti gli sguardi possibili rispetto alla contemporaneità e rispetto al lavoro delle donne, e quindi c'è sempre stata anche una sezione proprio dedicata all'arte contemporanea. Bene, i riferimenti ce li hai lasciati, Giulia. A questo punto un abbraccio, magari ci risentiamo a ridosso del festival. Va bene, un abbraccio a voi. Ciao, a presto. Ciao. Giulia Ghigi della 22esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival, che sarà a Milano dal 20 al 28 marzo e ha lanciato una campagna di crowdfunding per autofinanziarsi. Federico Ferrone, coregista del documentario Il treno va a Mosca. Ci sei, Federico? Ci sono, come state? Bene, tu intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Per quanto riguarda il documentario, è uscito in questi giorni in DVD, ne avevamo già parlato nei mesi scorsi, raccontalo un po' a chi ci ascolta, Federico.